Allora, senta, onorevole Carlucci, lei quando vuole comunicare con Berlusconi, come fa? Allora, ci sono vari modi. Innanzitutto c'è la batteria del Viminale o il centralino di Palazzo Chigi, che è un numero che hanno tutti i deputati, Ma tutti anche del tutti, governo. sì, c'è cioè il centralino di Palazzo Chigi, in realtà ce l'abbiamo Anche la pure, no? batteria del Viminale, Anche la nel batteria senso del che c'è un centralino appunto del Ministero degli Interni, per cui tu dici chi sei Sì, e ti metti in certo. contatto con il Presidente. Io ho usato spessissimo questo Per mezzo comunicare col presidente Berlusconi? E per comunicare con il Presidente Berlusconi. poi chi le passano? Il caposcorta, Buonaiuti, chi le passano per primo? No, spesso direttamente lui. No, così al Oppure la volo. segreteria, Non l'ho mai visto che ci sì, vuole oppure la arrivare. segreteria, c'è una serie di segretari che stanno accanto a lui, poi dipende Sì. dove si trova in quel momento, però insomma, Cioè, dalla spesso è batteria così. lo avvertono, c'è l'onorevole Carlucci che la cerca. Qualcuno È parla con lei. successo così. Cioè, lei non ce l'ha un numero particolare che le mette in collegamento direttamente con caposcorta, non Ma ce l'ha. io ho i numeri comunque sì, della sua segreteria particolare, della sua scorta, ho tutti questi numeri, certo. Se non, però è più facile passare per i centralini che abbiamo detto prima. Certo, però lei è un deputato del PDL, insomma, è un deputato del Certo. PDL, ha una figura istituzionale, è una persona che conosce Berlusconi da un sacco di tempo e dunque è abbastanza logico che possa avere, diciamo, un telefono che non sia quello appunto della batteria oppure Sì. del Viminale o di altri numeri. Qui sembra che, insomma, ci sia una modella brasiliana che abbia attivato Berlusconi la sera famosa di maggio, quando poi è successo tutta l'affare di Ruby. Lei ci crede a questa cosa? Ma perché no? Io conosco Berlusconi da tanto tempo Sì, e e lo dà il numero conosco. così facilmente? No, è una persona gentile, educata, gioviale, molto simpatico. Ha tanti conoscenti. E i suoi conoscenti spesso sono accompagnati da bellissime donne. Quindi non trovo strano che magari questa modella fosse la fidanzata di un suo conoscente, di un suo amico, e che quindi in quel modo sia potuta venire a conoscenza del numero.